America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Le prime pagine dei giornali americani sono dominate dal vertice europeo, dal tentativo di arginare la crisi, dall'appuntamento ulteriore per mercoledì, luci e ombre naturalmente su quello che si è deciso in questo vertice. L'America preme anche perché bisogna puntare alla crescita, non soltanto arginare il contagio e il problema della fragilità delle banche. Però oggi vorrei dedicare un approfondimento a quello che è uno dei grandi eventi della giornata, cioè la pubblicazione del libro su Steve Jobs, della biografia autorizzata scritta da Walter Isaacson, e vorrei dedicarla a un'intervista che Walter Isaacson ha fatto con Steve Croft su CBS 60 Minutes ieri sera, un'intervista molto interessante da cui abbiamo anche avuto alcune voci. Time we grew up in was a magical time. It was also very, you know, spiritual time in my life. Avete sentito la voce di Steve Jobs? Steve Jobs che racconta se stesso, dice: gli anni in cui sono cresciuto sono stati anni straordinari ed è stato un periodo molto spirituale della mia vita. Spirituale perché il padre era un lavoratore, era un uomo modesto, era stato adottato, questo lo sapete. Steve Jobs viveva un po' col complesso di questa adozione. Un giorno un bambino lo provoca e lui si mette a piangere. Il bambino gli dice: i tuoi genitori veri ti hanno abbandonato. Corre a casa. Dice ai genitori: ma è vero che sono stato abbandonato? I genitori gli dicono: no, non sei stato abbandonato, non è vero, siamo noi che ti abbiamo scelto. E dunque questa idea di essere un prescelto da allora in avanti è diventato uno dei punti di svolta per lo sviluppo della personalità di Steve Jobs e per quella che poi nella sua testa è diventata questa sua straordinaria missione di cambiare il mondo. E dunque il padre per lui è stato un esempio. Una delle cose che ricorda è quando dovevano montare una piccola staccionata e una parte si vedeva, l'altra parte non si vedeva, e però il padre gli disse: dobbiamo farla perfettamente anche dalla parte che non si vede, perché solo in quel modo sapremo che avremo fatto il nostro lavoro davvero bene. E dunque questi principi sono stati fondamentali, importanti per Jobs, che dice: non passò molto tempo prima che Apple diventasse almeno sulla carta una miniera di soldi. Avevo 24 anni e avevo già forse 50 milioni di dollari in tasca. Sapevo che non mi sarei più dovuto preoccupare dei soldi. Così sono passato dal non preoccuparmi dei soldi perché non ne avevo a non preoccuparmene perché ne avevo troppi. He asked me at one point, he said, there could be things in this book I don't like, right? And I kind of smiled and said, yep, you know, there'll be probably things you don't like. He said, that's fine. I won't read it when it comes out. I'll read it 6 months or a year from now. Qui è Walter Isaacson che parla. A un certo punto mi ha chiesto Steve Jobs: ci saranno delle cose nel libro che non mi piaceranno, è vero? E io gli ho sorriso e gli ho risposto: sì, ci saranno alcune cose che forse non ti piaceranno. E lui mi ha detto: va bene così, non lo leggerò appena uscito. Però, e questo è un punto che sottolinea Isaacson, proprio negli ultimissimi tempi in cui l'aveva visto, poche settimane prima della sua morte, e Jobs era convinto che forse si poteva trovare una medicina che lui usava dal punto di vista sperimentale che lo avrebbe alla fine salvato. E quindi gli disse: adesso sono troppo debole, per un po' dovrò curarmi, ma fra un anno o un anno e mezzo lo leggerò. Quindi sempre attaccato con grande tenacia alla vita. Una delle cose che mi ha colpito è stata proprio la conversazione fra Steve Croft e Walter Isaacson, due titani, vi dicevo, giornalismo americano, perché non sono lì a fare una geografia, a cercare di dare un'immagine assolutamente perfetta di questo personaggio complesso, geniale, difficile, irascibile che è stato Steve Jobs, ma cercano invece di sminuzzarlo e di darne un'immagine il quanto più vicina possibile all'immagine più vera di Steve Jobs sul lavoro. And at one point tries to go to Steve and just starts crying, but Steve can be very cold about these things. Finally, one of the engineers at Apple said, you know, we have to take care of your buddy Daniel. I'll give him some stock if you match it or whatever. And Jobs says, yeah, I'll match it. I'll give zero, you give zero. E in questa conversazione fra i due giornalisti emerge un aspetto non bello della personalità di Steve Jobs, un aspetto non generoso, un aspetto duro. A un certo punto, quando lavorava nel garage, c'era un gruppetto di persone che lavorava con lui e con Wozniak, il suo socio principale. Uno di questi era un amico, era andato con lui addirittura in India, erano amici da sempre. Eppure quando si trattò di distribuire le stock option, alla fine fu Steve Jobs a decidere decidere chi premiare e chi no, e decise di non premiare questo suo amico, cosa che lasciò molto stupiti tutti gli altri colleghi, amici che lavoravano insieme a questi progetti. Uno di loro a un certo punto si decise, andò a dirgli: dunque, guarda Steve, io sono pronto a mettere la metà di una certa cifra, rinuncio a una parte del mio bonus, e l'azienda Apple Computer mette l'altra metà, facendo un matching funds, diciamo, uguagliando la cifra che io ho messo. Benissimo, benissimo, gli risponde Steve Jobs. Allora guarda, stabiliamo la cifra sarà zero. Dunque non si è mosso di un millimetro da questa sua decisione. And these, I saw these people who were really nice, simple people turn into these bizarro people. And I made a promise to myself. I said, I'm not gonna let this money ruin my life. Ecco, qui parla di soldi, parla del suo rapporto coi soldi e del perché non è attaccato ai soldi, perché, racconta Jobs, ha visto una gran quantità di persone che sono state deviate dai soldi e dunque ha preferito avere una casa del tutto normale, una vita normale, non ostentare ricchezza come invece hanno fatto altri. Ultimo punto importante emerso da questa chiacchierata, la rivelazione, cioè che Steve Jobs ha conosciuto in realtà il suo padre biologico, sapeva chi era, però decise di non volerlo conoscere, mandò invece sua sorella Mona Simpson. Quando Mona Simpson incontrò anche lei per la prima volta il suo padre biologico, e questo gli disse: ah, mi dispiace che sei in questo ristorante così modesto. Lui era laureato in filosofia, però gestiva un piccolo ristorante. Pensa che poco fa ne avevo uno molto più importante, dove veniva persino Steve Jobs, mi ha dato la mano e dava delle mance straordinarie. La Simpson rimase esterrefatta, chiese poi a Steve Jobs se in effetti lo aveva incontrato. Jobs dice sì, dice in effetti mi ricordo di aver stretto la mano a questo signore, un siriano mi pare, non avevo idea ovviamente che fosse lui. E sempre in questa sua determinazione e severità decise di non incontrarlo mai, anche quando il padre biologico voleva farlo, quando era ormai sul letto di morte. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, la dedichiamo a Steve Jobs, che amava Bob Dylan e i Beatles dedicati a lui li abbiamo già sentiti, e di Bob Dylan, Like a Rolling Stone, adatta a Steve, una pietra rotolante. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.